collegate strettamente ai riti di adorazione obbligatori, ci sono dei riti di adorazione supererogatorie che si chiamano le preghiere della Sunna e sono due rakah prima della preghiera dell'alba, del Fajr, due rakah prima della preghiera del Dhuhr, del mezzogiorno, e due dopo, due rakah prima della preghiera del pomeriggio e due rakah dopo la preghiera del Maghrib. Alla preghiera dell'Isha, cioè del calar delle tenebre, si fanno seguire due rakah, però le rakah che possono essere fatte a due non hanno un numero perché sono devozioni. A questo punto che cosa succede? Che quando si vuole terminare le devozioni bisogna fare quella preghiera che si chiama il witr, witr che significa dispari, cioè quando abbiamo deciso di terminare, nella prima raka recitiamo dopo Suratul Fatiha la Suratul Ala. Nella seconda, dopo Suratul Fatiha, recitiamo Suratul Kafirun. Nella terza raka, quella del witr, cioè dispari, si recitano dopo Suratul Fatiha, Qul huwallahu ahad, cioè Suratul Ikhlas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Suratul Falaq, e infine Suratul Nas, cioè la sura 114 del Sublime Corano. Nella raka del witr c'è una invocazione che si chiama Dua ul Qunut e questa invocazione viene eseguita dopo l'inchino e prima della prosternazione. Le parole sono le seguenti: Allahumma ahdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li فيمن عطيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت وإنه لا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي والله. Mettimi nel novero di coloro che hai ben guidato, mettimi nel novero di coloro che hai salvato, mettimi tra coloro che tu hai eletto, benedicimi in ciò che mi hai dato, proteggimi dal male che hai decretato. In verità tu decidi ed è impossibile contrastare ciò che hai deciso. Non può essere umiliato chi tu sostieni, non può essere sostenuto chi tu vuoi umiliare. O Signor nostro, tu sei benedetto ed esaltato, noi ti chiediamo perdono e ci volgiamo a te. E la pace e la benedizione di Allah siano sul profeta. Sallallahu alaihi wasallam.